I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Una Roma sfacciata, decadente, senza efficienza e senza etica, quella che emerge dalla prima indagine a campione voluta dal commissario Tronca, e va sottolineato che si tratta di un'indagine a campione, sugli appartamenti e sugli uffici patrimonio del comune. L'indagine ha interessato 574 immobili del centro storico e il 50% dei contratti sono risultati scaduti o con sfratti in corso da anni. Il 16,2% degli occupanti è risultato abusivo e solo nel 18% degli alloggi effettivamente si può dire si pagasse un canone di locazione, anche se certo non di mercato. Gli inquilini in sostanza sono morosi nell'85% dei casi e spesso lo sono da più di 25 anni. Sì, avete sentito bene, da più di 25 anni. Dei bollettini per il recupero della morosità arrivati nel 2015, il Comune doveva chiedere 50 milioni di risarcimenti, ne ha recuperati 25 ed effettivamente è comunque una cifra record, ma i canoni di affitto sono da presa in giro, 1,81 euro per abitante a due passi dalla stazione, poco più di 5 euro per vivere vicino a Campo dei Fiori o 32 euro per avere una vista Colosseo o ancora 4,17 euro per una casa nei pressi di Piazza Mazzini. Insomma, indignarsi non è demagogia, soprattutto perché ci si scandalizza, sì, per i tanti furbetti dell'appartamentino, ma ci si indigna soprattutto perché finora il Comune questo andazzo lo ha sempre tollerato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.